La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua amici, buongiorno, ben ritrovati, buon pomeriggio, anzi per chi ci ascolta il sabato, ben ritrovati alla Rosa Purpurea. Questa è l'ora che è diventata un'ora e mezza di cinema settimanale di Radio 24. Un'ora e mezza perché, come facciamo ormai dall'inizio dell'estate, prima dell'ora di attualità abbiamo la mezz'ora di intervista, abbiamo l'approfondimento, l'incontro con un grande personaggio del mondo del cinema. E la nostra galleria oggi si arricchisce di un maestro assoluto, di quelli con la M maiuscola, della settima arte di tutti i tempi, uno dei registi italiani più apprezzati e più anche imitati in un certo senso, sicuramente che hanno fatto più da modello per tante generazioni di cineasti. Stiamo parlando di Bernardo Bertolucci. Bernardo Bertolucci che ha compiuto 70 anni, 71 anni anzi, il 16 marzo scorso, che ha in programma un nuovo film, probabilmente in 3D, e questa è anche una delle novità divertenti, lo sentiremo durante la nostra intervista. Bernardo Bertolucci che è andato a prendersi un altro omaggio, ne sono stati fatti tanti per i suoi 70 anni che sono culminati nei 71, ma recentemente al Festival di Pesaro, al Festival del Nuovo, alla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, Bernardo Bertolucci è stato oggetto di un omaggio e soggetto di un incontro straordinario, davvero straordinario. Quasi un'ora, anzi più di un'ora, con una sala cinematografica, il cinema sperimentale di Pesaro, totalmente piena, gremita, soprattutto di giovani che volevano semplicemente sentirlo parlare. È un po' una rarità, non è uno che rilascia interviste ogni due minuti. Bertolucci, anche se è una persona molto così affascinante e anche affabile e anche avvicinabile, però questa è stata un'occasione davvero straordinaria. Noi c'eravamo, noi della Rosa Purpurea c'eravamo lì alla Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e abbiamo portato a casa davvero una serie di illuminazioni, dichiarazioni, aneddoti straordinari da parte di questo grande maestro. E allora, come sempre, con la nostra formula, che è quella di alternare le clip dei film più importanti del nostro ospite e le sue dichiarazioni, cominciamo subito con una clip per entrare un po' nel clima Bertolucci. Bernardo Bertolucci comincia a fare cinema negli anni 60, preso e rapito dalla Nouvelle Vague, come sentiremo, e il suo primo film importante al quale sono legate le sue prime dichiarazioni è Prima della Rivoluzione. Il miracolo del cinema è questo per me. Niente ti dà più il senso del 1946, per esempio, della coppia Humphrey Bogart e Lauren Bacall nel Big Sleep di Hawks. Ma io ti sto annoiando con questo discorso. Dico bene o dico male? No, scusami, stavo pensando a una cosa. Anche quando sei entrato al cinema Orfeo pensavi a dell'altro. Dico bene o dico male? Guarda, non so neanche che film ho visto. Sono entrato così, era un'ora che giravo per strada. Io invece sono entrato alle 6. 6 e 2, 8 e 2, 10. L'ho visto due volte. A certi film non li sopporto. Vertigo 8 volte. Viaggio in Italia 15 volte. E tu puoi vivere senza Hitchcock e Rossellini. Questo era un brano di Prima della Rivoluzione. Il critico che sentivate parlare in maniera dotta di cinema era niente meno che il grande Morando Morandini, a cui va il nostro saluto. Tra l'altro forse lo avremo qui alla Rosa Purpurea nelle prossime settimane per un festival, però era un interessantissimo dialogo che vi faceva capire anche come il cinema stesse andando da un'altra parte. E allora ripercorriamo quei momenti, quegli inizi, la fatica di quei primi film dalla voce di Bernardo Bertolucci. C'è un film di Godard, credo del 67, in cui Jean-Pierre Léaud dice a, mi pare, Zuzu, dice Jean-Pierre Léaud, vado a Roma a mettere qualche bomba con Bertolucci nei cinema italiani perché non fanno vedere i bei film, fanno solo vedere dei brutti film doppiati. E lo dice così. Però, insomma, è il segno che c'era un disagio molto forte nell'essere registi in Italia in quei primi anni 60. Arrivato a Cannes con questo Prima della Rivoluzione, mi trovo il giorno dopo la proiezione alla Semaine de la Critique con tutti i giornali italiani contrari, tranne uno, credo, o forse due. Uno era Il Giorno con Morandini, che era uno dei protagonisti del film, e quindi ne aveva parlato. C'era un fortissimo conflitto di interesse, quindi non conta. Ecco, questo è già il primo racconto. Insomma, anni non facili per un cinema italiano che veniva fuori dal neorealismo e abbracciava i suoi grandi maestri, ma che faceva fatica un po' a mettersi in linea con quello che stava succedendo di tanto frizzante fuori dai confini. E proprio in questo senso Bertolucci racconta appunto quello che fu l'avventura di prima della rivoluzione a Cannes nel 1964. Io ebbi questa folgorazione godardiana, credo nel 60 o 59, quando per il regalo, dopo gli esami di maturità andati bene, andai a Parigi per un mese e vidi, era appena uscito, Abou de Souffle. E lì mi dissi, ma allora tutto quello che c'era prima è finito, adesso c'è una cosa nuova, che mi aveva veramente aperto un po' la testa sul cinema. È vero anche che il film era stato così appunto insultato dai critici, scusate, italiani, che mi ricordo che camminai almeno per un'ora o due su e giù per la Croisette sperando di incontrare, non lo so, adesso non dico i nomi perché probabilmente tanti sono morti, e poterli prendere a pugni, non lo so, mi volevo fisicamente difendere da questi attacchi. Dopo quel festival di Cannes, qui c'è uno degli aneddoti più simpatici e divertenti, Bertolucci va proprio a Pesaro, è la prima edizione della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro. Bertolucci ci arriva invitato e ci arriva anche un giovane attore americano, si chiama Jack Nicholson. Il legame più forte mio con Pesaro in effetti è Jack Nicholson. Voi vi chiederete perché Jack Nicholson? Perché ci eravamo sfiorati tutti e due al Festival di Cannes e io non sapevo che l'avrei rivisto qui a Pesaro. E invece, proprio il primo giorno, credo, all'inaugurazione, arriva Jack. Da allora siamo diventati amici. Ma perché siamo diventati amici? Perché andavamo tutti e due dietro a una ragazza che non voleva né lui né me. E Zuzu, tra l'altro, era la famosa ragazza di cui non si dice. E quindi siamo diventati amici per forza, perché eravamo lì dietro di lei senza, con ben poco da fare. E allora passano gli anni, al di là dell'amicizia con Jack Nicholson, giovane Bernardo Bertolucci non trova sfogo. Quel film prima della rivoluzione, che poi sarà rivalutato come un autentico gioiello, fatica, e allora non arrivano delle proposte, avete sentito, non c'era una così una capacità di accettare questa cosa. Arrivano dei documentari, uno strepitoso che La Via del Petrolio, un film inchiesta per la televisione, e poi arriva un momento importantissimo. Un giorno Bernardo Bertolucci va al cinema per vedere il nuovo film di Sergio Leone. Sono andato a vedere Il Buono, il Brutto e il Cattivo a Roma, in un grande cinema, con un grande schermo, c'era questo CinemaScope. Andai al primo spettacolo del primo giorno, perché in effetti aspettavo più i film di Sergio Leone che quelli di Scola o di Risi. Il giorno dopo arriva una telefonata di Sergio Leone, che mi dice: sono Sergio Leone. E io mi misi subito quasi a tremare, perché era importantissimo, aveva fatto questi film fondamentali che si chiamano Per un pugno di dollari, Per qualche dollaro in più, poi il terzo, Il Buono, il Brutto, il Cattivo. Insomma, il giorno dopo ero davanti a lui. Se tu ieri eri al primo spettacolo del mio film al cinema, Super Cinema. Dico: come lo sai? Stavo in cabina di proiezione e controllavo tutto. E perché? E disse: perché mi piacciono i tuoi film, sono curioso di vederli e quindi vado al primo spettacolo. Ma perché ti piacciono i miei film? Allora io gli dissi: perché mi piace come filmi Il culo dei cavalli. E lui disse: cosa vuoi dire? Non sapeva se offendersi o... E disse: perché i cavalli in genere nei western vengono visti di profilo, queste silhouette sinuose che corrono contro il cielo rosso del tramonto, e invece solo tu e Ford, quando si arriva davanti ai saloon, sostate su questo enorme chiappone dei cavalli. Lui mi guardò dopo un lungo silenzio e mi disse: tu scriverai il mio film. Il film era C'era una volta il West. Mica poco, C'era una volta il West, sceneggiatura di Bernardo Bertolucci insieme a un altro giovane rampollo del cinema italiano che si chiamava Dario Argento, con ovviamente la supervisione e la grande mano di Sergio Leone, viene fuori uno dei capolavori della storia del cinema. Ebbene, questo dà fiducia, ridà slancio all'attività di Bertolucci, che nel 1970 firma uno dei suoi capolavori, forse il primo suo vero capolavoro, Il conformista. Com'è un uomo normale, secondo te? Un uomo normale. Per me l'uomo normale è quello che si volta per la strada per guardare il sedere di una bella donna che passa e scopre che non è il solo ad essersi voltato, e ce ne sono almeno 5 o 6, ed è contento se scopre gente uguale a lui, i suoi simili. Perciò gli piacciono le spiagge affollate, le partite di football, i bar del centro. E le adunate oceaniche a Piazza Venezia. Ama quelli che sono come lui. E diffida di quelli che sente diversi. Per questo l'uomo normale è un vero fratello, vero cittadino, vero patriota, vero... vero fascista. Grandissimo film, Il conformista, tratto da Moravia, presentato a Berlino, nomination agli Oscar per la migliore sceneggiatura non originale, grande cast di attori, Trintignant, Stefania Sandrelli, Dominique Sandà. Fra poco, dopo la viabilità, proseguiamo il nostro viaggio in compagnia di Bernardo Bertolucci. La rosa purpurea. Ehi, senti un po'. Io me ne devo andare. Signore, devo andare via. Il letto è troppo grande, non c'entra. Non so come chiamarti. No. Vuoi sapere il mio? No, sta zitta, non dire niente. Io non voglio sapere come ti chiami. Tu non hai nome, io nemmeno, nessun nome. Qua dentro non ci sono nomi, non esistono nomi, capito? Lei è pazzo. Forse lo sono, però non voglio sapere niente di te. Non voglio sapere dove abiti, con chi abiti o da dove vieni. Non voglio sapere niente, niente di niente. Siamo intesi? Mi fa paura. Niente. Noi ci incontriamo senza sapere niente di quello che siamo fuori di qui. 1972, ancora una clip che avete assolutamente riconosciuto, Ultimo tango a Parigi, il successo planetario, il primo successo planetario di Bernardo Bertolucci, che è l'ospite della nostra intervista di oggi. Ultimo tango a Parigi arriva 2 anni dopo Il conformista, è il momento migliore di quella parte iniziale della carriera di Bernardo Bertolucci, e questo film è il film che lo consacra in maniera universale, un film che ha visto veramente toccare tutti o quasi tutti i paesi e i mercati del mondo. Marlon Brando e Maria Schneider sono diventati un'icona in quelle scene bollenti, in quell'appartamento semivuoto di Parigi. Un momento, un passaggio determinante che Bernardo Bertolucci ricorda così. Ultimo tango a Parigi è un film che è uscito in tutti i paesi del mondo, tranne, non so, la Spagna di Franco, dove c'erano dei treni per Perpignan che partivano da Madrid 2 volte al giorno, per, proprio come i treni che vanno a Lourdes, invece andavano a vedere Ultimo tango a Parigi a Perpignan, che era proprio il più vicino alla Spagna. Quel tipo di successo lì è in effetti molto, molto invasivo e può diventare quasi una droga di cui è difficile fare a meno. In questi anni Bernardo Bertolucci risolve anche un conflitto, quello del suo rapporto con il pubblico, e lo fa anche attraverso un metodo assolutamente nuovo ma molto molto cinematografico, basti pensare a Woody Allen, quello dell'analisi. Per troppo tempo, negli anni 60, abbiamo pensato che se un film aveva successo commerciale, successo di pubblico, c'era qualcosa dentro di diabolico. Dopodiché, invece, nel 69 cominciai un'analisi e mi resi conto ben presto che io avevo paura, in realtà, di incontrare il pubblico. E lì si è liberato qualcosa, cioè quello che Roland Barthes chiama il piacere del testo. Cioè, io posso condividere il grande piacere che provo nel fare un film con quello che potrebbe essere il grande piacere di un pubblico che guarda questo film. Questo comincia con Il conformista, che è un film fatto secondo proprio quelle che sono più o meno le regole del cinema del momento, e con il film successivo che è Ultimo tango a Parigi. Questo feedback del pubblico diventa un'ondata internazionale. Io posso dire una cosa sola, non ho mai fatto male a nessuno. Mai fatto male a nessuno. Questo lo dicono tutti i padroni adesso. E sono così ipocriti che quasi ci credono. Non ho mai fatto male a nessuno. E per questo avete tirato fuori di prigione i delinquenti e sbattuto dentro i comunisti, eh? Sì, è così, compagni. I fascisti non sono mica come i funghi, che nascono così in una notte. No, i fascisti sono stati i padroni a seminarli. Li hanno voluti, li hanno pagati. E coi fascisti i padroni hanno guadagnato sempre di più, al punto che non sapevano più dove metterli i soldi. Così hanno inventato la guerra. Ci hanno mandato in Africa, in Russia, in Grecia, in Albania, in Spagna. Ma chi paga siamo sempre noi. L'incontro fra l'Olmo di Gérard Depardieu e l'Alfredo di Robert De Niro. Novecento, l'altro grande capolavoro di impatto mondiale di Bernardo Bertolucci. E questo arriva nel 76, arriva dopo il grande successo di Ultimo tango a Parigi, che, come sentiamo, aveva dato a Bertolucci la possibilità di fare praticamente quello che voleva. Dopo Ultimo tango a Parigi mi sono detto: cerchiamo di fare qualcosa che contenga ancora degli elementi un po' dialettici con la gente, e quindi che non ci sia questa specie di successo così schiacciante. E mi dico, siccome adesso tutte le grandi compagnie americane vogliono lavorare con me, facciamo un film che farà sì che la Paramount, la United Artists, la 20th Century Fox pagheranno per la più grande bandiera rossa mai vista al cinema. E così faccio 900. Dopodiché il film esce qui in Italia, è un grande successo, e però il film non esce negli Stati Uniti. Cioè, la mia idea di aprire negli Stati Uniti questa grande bandiera rossa in realtà fallisce. Anche la prima idea del film, della produzione, era quella di avere per Alfredo un attore americano, e c'era, ed era Bob De Niro, per Olmo un attore sovietico. E invece niente, lì ebbi le ossa rotte, perché per anni il film non uscì negli Stati Uniti. C'era un problema di lunghezze che fu usato molto bene dalla Paramount, che era, diciamo così, la più di destra di tutte le distribuzioni americane. E niente, dovetti accettare il compromesso. Il film durava 5 ore e 10, dovetti fare un film di 4 ore e 10. Dopo il successo di 900 passano gli anni, un paio di film importanti, anche se non, fra virgolette, di massa, come La luna e La tragedia di un uomo ridicolo. Poi per 7 anni più nulla, fino a quando non arriva L'ultimo imperatore. Mi chiedevano come mai la Cina. Era l'84. Dall'80, non, dopo La tragedia di un uomo ridicolo, non avevo fatto più nulla, non avevo girato più niente, mi dibattevo di qua e di là. È che poi dopo io mi ritrovo con la voglia di andare il più lontano possibile dall'Italia. C'è un cambiamento nazionale che mi fa sentire un pochino a disagio. E allora mi dico, se me ne vado lontano, ecco, tutto risolto. E mi ritrovo in Cina. Dall'84 il film viene girato nell'86, 2 anni. E insomma, nell'86 sono a Pechino e comincio a girare L'ultimo imperatore. Entrare in un mondo che assolutamente non conoscevo, per innamorarmene completamente. So che mi chiamano il vecchio Buddha. Lei è Peonia. Ti piace? Gli uomini, lo sai, non possono restare nella città proibita dopo il tramonto. Nemmeno un piccolo uomo come te. L'unico uomo che può vivere qui è l'imperatore. Ma l'imperatore è volato lontano e a cavallo del drago. Ci ha lasciato e morto. L'ultimo imperatore vince 9 premi Oscar, record assoluto per il cinema italiano, ed è un successo mondiale. Ormai Bernardo Bertolucci è il più importante regista italiano in quel 1988 fra quelli operanti, almeno il più importante a livello internazionale. Arrivano altri grandi colossali, Il Tè nel deserto, Il piccolo Buddha. Poi Bertolucci torna a delle atmosfere più intime con film come Io ballo da sola, L'assedio, per sposare, ricordare quegli inizi, quella Cinémathèque française, quella atmosfera del maggio francese, con The Dreamers nel 2003. E adesso? Adesso Bernardo Bertolucci è finalmente tornato, dopo quasi 10 anni, a impostare e quasi a girare un film. Sarà Io e te, tratto dal romanzo di Ammaniti, e sarà girato in 3D. Il 3D che userò, spero, nel mio prossimo film è qualcosa in più che ho incontrato molto di recente per poter aggiungere al corredo, si dice il corredo degli obiettivi della macchina da presa, un obiettivo in più. Adesso ne ho due: Freud e il 3D. Poi vedremo che succede, perché mi dicono che un quarto del pubblico guardando il 3D si sente male. Quindi, se questo è vero, dovrei stare un po' attento a quello che faccio. Ecco, basta. Noi ci fermiamo qui per il momento. Fra poco comincia l'ora di cinema, di attualità cinematografica, e ovviamente imperirà Harry Potter. La Rosa Purpurea. Ed eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea. Noi adesso ci occupiamo di tutto quello che di nuovo c'è nelle sale cinematografiche italiane. Una settimana, tra l'altro, con parecchie uscite, ma chiaramente con una assolutamente dominante. Da mercoledì è nei cinema italiani Harry Potter, I Doni della Morte, parte 2, l'ultimissimo capitolo della saga di Harry Potter. Su questo verterà gran parte della nostra trasmissione, ma andiamo insieme a riepilogare i contenuti nei nostri titoli di testa. L'attesa è finita. Arriva nelle sale italiane l'ultimo capitolo della saga di Harry Potter. L'attesissimo ottavo film, tratto dai romanzi della scrittrice inglese J.K. Rowling, chiude la saga delle avventure del maghetto più famoso del mondo. Una commedia surreale, divertente e originale. È Balkan Bazaar, il film di Edmond Budina, che racconta il viaggio di una donna francese alla ricerca delle spoglie del padre in un'Albania lontana e arcaica. Un altro episodio della storia di uno dei personaggi più famosi dei manga giapponesi è Ken il guerriero, la leggenda del vero salvatore, che racconta le origini e il destino di Kenshiro. È stato uno dei trionfatori della stagione televisiva e cinematografica italiani. La Iena Luca Bizzarri si racconta ai microfoni della Rosa Purpurea e anticipa il progetto del sequel del film di Immaturi, la commedia più sorprendente della stagione che sta finendo. Lo ha tenuto in vita perché muoia al momento opportuno. Portalo da me. Scopriamo dove si trova. Mettiamo fine a questa storia. Io dico di saltare! Ora! Hogwarts è in pericolo. Presidiate i confini, proteggeteci. Devo tornare indietro, vero? È una missione suicida. Il clima di Harry Potter, I Doni della Morte, parte seconda, il secondo mezzo film dell'episodio finale della saga di Harry Potter. Già nelle sale italiane da qualche giorno, già i primi dati di incasso parlano di grande affluenza del pubblico. Noi abbiamo assistito all'anteprima stampa, che è stata blindatissima lunedì 11 luglio, ed è stata un'anteprima piena di emozioni. Abbiamo visto generazioni di ragazzi, insomma, uscire da da questa anteprima, un po' sconvolti dalla fine, dall'ultimo appuntamento con questo film. Noi cerchiamo un po' di raccontarlo e nella seconda parte del nostro programma vi faremo ascoltare tantissime voci dei protagonisti. Allora, dicevamo seconda metà del film, la prima metà dei Doni della Morte si era conclusa con i Mangiamorte, con Voldemort, il perfido che si era praticamente aveva messo le mani su Hogwarts, e con Harry e i suoi amici di sempre, Hermione e Ron, alla ricerca degli ultimi Horcrux per potersi appunto liberare da questa pressione di Voldemort. Ebbene, si ricomincia da lì con Harry che decide di andare a cercare uno degli Horcrux rimasti alla Gringot, la banca dei maghi, scene sempre piene di suggestione, oggetti che si perpetuano, si moltiplicano appena vengono toccati, draghi volanti che aiutano Harry e i suoi amici a scappare, insomma c'è tutto quello che è il côté di Harry Potter, fino a quando si arriva finalmente al momento clou, forse di tutta la saga, quello dell'incontro diretto e dello scontro probabilmente finale fra Harry e Voldemort. Il ragazzo che è sopravvissuto, venuto a morire. Racconti com'è andata quella notte. Racconti come lo ha guardato negli occhi un uomo che si fidava di lei e lei lo ha ucciso. Non ho mai voluto che qualcuno di voi morisse per me. Resterete con me? Sempre. Fino alla fine. Avanti, Tom. Finiamola come abbiamo cominciato. Insieme. In uno scenario apocalittico, in una Hogwarts semidistrutta dagli attacchi dei centurioni di Voldemort, arriva appunto la sfida finale fra l'esercito della morte e gli studenti della scuola dei maghi. Una battaglia che avviene quasi nel silenzio cinematografico. Questa è la mano di David Yates, il regista di queste due ultime parti, ma non solo, una capacità di isolare lo spettatore rispetto agli eventi, non facendo uso spasmodico di esplosioni, anche se sullo schermo le vediamo, ma cercando di attutire, quasi di rendere esterni a quello che succede gli spettatori e anche in un certo senso i personaggi. E in questo clima, appunto, che tocca anche punte surreali in certi momenti, si svolge l'ultima battaglia, che noi non andiamo ovviamente a spiegare, perché chi ha letto i libri sa già tutto e non vedeva l'ora, ma c'è qualcuno che poi magari arriva al cinema invece con l'anima e la trama ancora del tutto pulite. Allora lasciamogli la sorpresa di come andrà a finire questo ultimo capitolo. Harry, sii prudente, sii forte. Combattuto con valore. Stanotte unisciti a me e affronta il tuo destino. Ebbene, abbiamo detto della regia di David Yates, che è sicuramente capace ed è quindi un valore aggiunto di questo film. I ragazzi, come sempre, sono all'altezza, soprattutto Emma Watson, che pur avendo magari in questo film visibilità inferiore rispetto al solito, è sicuramente in pectore l'attrice forse più promettente del trio, ma anche Daniel Radcliffe e Rupert Grint se la cavano come sempre. Grande cast di contorno con nomi altisonanti che vanno da Helena Bonham Carter ad Alan Rickman, da Ralph Fiennes a Maggie Smith, eccetera, eccetera, eccetera, perché sono davvero tantissimi. Film che, preso da solo, forse è mancante di qualcosa, mancante di uno sviluppo ellittico particolare della trama, cioè che parta da un inizio e attraverso un percorso finisca a una fine, ma chiaramente, come abbiamo detto prima, è la seconda parte di un film e quindi andrebbe visto con un tutt'uno con il suo primo capitolo. Noi fra poco, dopo la viabilità, cominciamo a sentire le voci dei protagonisti di quest'ultimo episodio della saga di Harry Potter. Solo io posso vivere per l'eternità. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, stiamo parlando di Harry Potter e I Doni della Morte, parte 2, il film che chiude definitivamente, chi lo sa, metteteci un punto di domanda, perché già la scrittrice J.K. Rowling è stata abbastanza, come dire, possibilista in una qualche dichiarazione, ha detto non si sa mai, chi lo sa, e poi chi vedrà il film capirà che forse, come dire, si tratta di un finale aperto, ma comunque, insomma, per il momento, scherzi a parte, sicuramente è tutto finito, e fra poco sentiremo anche le voci dei fans di Harry Potter all'uscita dal cinema, però prima vogliamo farvi ascoltare le voci dei protagonisti, che anche per loro è stato un momento importante. Però prima di farvi sentire i protagonisti di oggi, ascoltate queste voci. A long time ago I read the first two books. I'm afraid I'm really gonna bore all of you, but I'm afraid I'm gonna stick it in a bank until I'm 21. Avete indovinato chi sono questi bambini che vi abbiamo fatto ascoltare? Era il 2001, il primo era Daniel Radcliffe, la seconda Emma Watson, alla conferenza stampa di presentazione del primo Harry Potter, la pietra filosofale. Erano veramente dei ragazzini che vederli adesso fa una certa impressione. Sono passati 10 anni, questi ragazzi, questi attori, sono cresciuti praticamente in simbiosi con i loro personaggi, così come simbiotico è stato il rapporto con tanti lettori di Harry Potter che oggi hanno 20, 22, 23. 5 anni, a volte anche di più, e hanno visto svolgersi la vita dei loro protagonisti preferiti sul grande schermo. Insomma, la chiusura di Harry Potter è la chiusura anche forse di un pezzettino di una generazione, e questo è sicuramente l'aspetto più interessante, forse a livello anche sociologico, se vogliamo, di questo film. Daniel Radcliffe, protagonista assoluto, non smentisce, anzi conferma di avere fatto scappare qualche lacrima l'ultimo giorno. On the very last day. L'ultimo giorno di riprese ho pianto, sì. Non so se le persone solitamente piangono quando finisce la scuola, eccetera, ma per me è stata proprio la fine di un periodo, di un'era. Ma com'è cambiato l'attore e il ragazzo Daniel Radcliffe, oggi giovane uomo, in questi 10 anni? I'm marginally taller than I was then. Beh, certamente dopo tutto questo tempo posso dire di essere una persona più brillante, più sicura, e penso anche di essere diventato un attore migliore, o almeno lo spero. I've got a better sense of humor now. Yeah, that's all I can think of. And I'm a better actor, I bloody hope. I suoi capelli rossi hanno ormai fatto breccia nell'immaginario dei fans di Harry Potter. Rupert Grint è per tutti Ron, e queste le sue dichiarazioni sul red carpet dell'anteprima londinese. 10 anni fa non avrei mai immaginato di partecipare a 8 film di successo. Penso che nessuno di noi se lo sarebbe immaginato. È incredibile. E mi ci vorrà un po' per realizzare che tutto ciò è finito. Questo era Rupert Grint. Ora, Emma Watson, l'attrice che interpreta Hermione, ha dovuto negli ultimi 2 film baciarli tutti e due, sia Daniel Radcliffe che in questo Rupert Grint, e ci spiega, non senza umorismo, le differenze fra questi 2 baci. Well, obviously kissing Dan, kissing Harry for that scene, you know, it's a figment of. Il bacio tra me e Daniel, cioè Harry, per quella scena che è poi un frammento dell'immaginazione di Ron e delle sue paure più tremende, doveva ovviamente essere passionale. Ero mezza nuda e coperta di vernice argentata, il che ha reso tutto più imbarazzante. Baciare Rupert, cioè Ron, è stato anche piuttosto strano. Sapevamo che nella scena saremmo stati travolti da uno scroscio d'acqua, ma dovevamo far finta di non saperlo, e questo ha reso il tutto ancora più difficile. Sono stati entrambi dei gentlemen, anche se eravamo tutti imbarazzati, visto che siamo praticamente cresciuti assieme come fratelli. E poi abbiamo dovuto farlo 4 o 5 volte, e baciarsi così tante volte dopo un po' solitamente diventa noioso. Genuinely. Questa è la simpatica versione di Emma Watson, e come dicevamo, sentite i protagonisti, sentite le loro emozioni di questa fine della saga. Avete sentito Daniel Radcliffe dire un po' come l'ultimo giorno di scuola, effettivamente. Andiamo a sentire invece con quale umore gli spettatori hanno accolto, spettatori che sono spesso anche fans di tutta la saga e dei libri della saga, hanno accolto il film all'uscita di un cinema di Bologna. Per noi c'era Chiara Pizzimenti. Questo qua è stato più bello. Mi è piaciuto piaciuto quando Piton rivela tutto a Harry dopo che quando piange, è stato molto bello. Beh, mi è piaciuto molte scene, ma soprattutto quando Voldemort è morto. Avevi visto gli altri film? Alcuni sì, alcuni no. Comunque grazie a quelli che me l'hanno spiegato un po' l'ho capito tutto. Moltissimo, molto bello. Lo aspettavi? Ho letto il libro, quindi molto bello, sì. È stato anche strano vedere come ogni parte di ogni film si incastrava perfettamente alla fine e a me è piaciuto molto. Cosa ti è piaciuto di più? La parte finale che ho pianto. Poi anche quando vedevo tutti i corpi degli amici morti. Così. Il coraggio. Rispetto agli altri è stato più originale. E mi ha sorpreso. La parte finale. È stato bellissimo. Tutto. A me è piaciuta la fine. L'ultima parte quando fanno vedere i figli di Harry Potter. Quando anche ho ucciso Voldemort della battaglia finale. No, cioè la parte in cui si vedevano i figli era esagerata, cioè era molto penosa. Com'è rispetto agli altri? Sono belli tutti, però questo è bello. È la fine! È la fine! E allora, questi erano i fans, gli spettatori di Harry Potter, le loro emozioni. Si chiude qui la grande parentesi della Rosa Purpurea sull'approdo al cinema dell'ultimo capitolo, in 3D tra l'altro, forse non l'abbiamo detto fra le pieghe del nostro racconto, doveva essere in 3D anche la prima parte dei Doni della Morte, ma poi non avevamo fatto in tempo a farla. E devo dire, piccola spigolatura critica che mi era sfuggita, ma è bene che ve lo sappiate, che il 3D non aggiunge assolutamente niente a questo film. Penso sia uno degli utilizzi più inutili del 3D che io abbia visto da quanto questa tecnologia è tornata di imperio nei cinema. Già di solito non è che mi sembra che faccia fare rivoluzioni che non al prezzo del biglietto. In questo caso davvero è stata totalmente inutile e dopo pochi secondi ci si dimentica di essere di fronte al 3D, tranne che per avere gli occhialini in testa, che magari si potevano anche evitare. Ma comunque, detto questo, noi siamo arrivati a questo punto invece alla prima parentesi col gioco della Rosa Purpurea. Come sempre noi vi proponiamo tre tracce di un film misteriose fino a quando non le indovinate, scrivendo alla Rosa Purpurea @radio24.it, compreso il vostro indirizzo, per agevolare le operazioni di spedizione. E noi cominciamo con questo frammento. Aspettate visite, ragazzi. E la nostra cena è anche la colazione. Mi piace farla abbondante. Voci roche, voci segnate e colazioni abbondanti. Questi sono i primi indizi di questo film. La Rosa Purpurea @radio24.it, se avete già indovinato di che film si tratta, se no più tardi ci saranno altre due possibilità. Risulta che la barra è stata spedita a Tirana. In Albania. Esattamente, in Albania. La bara è stata spedita a Tirana, in Albania. Di cosa stiamo parlando? Di Balkan Bazaar, un altro dei film che arrivano nelle sale italiane in questo fine settimana. Lo ha diretto Edmond Budina, che è in collegamento con noi. Ciao Edmond. Ciao. Allora, Balkan Bazaar, intanto spieghiamo un po' agli ascoltatori chi è Edmond Budina, perché in questo caso regista di questo film, ma attore anche di alcune commedie italiane, ma soprattutto un esponente di un cinema che sta cercando di rinnovarsi, come appunto il cinema albanese. E nel suo film Edmond Budina ha scelto una cifra che è un po' quella del cinema balcanico, surrealismo, divertimento, qualche bizzarria, per raccontare questa storia di una donna, una bella donna sui 40 anni, francese, che dopo il divorzio dal marito italiano vorrebbe tornare a vivere in Francia, ma si trova appunto con questo problema da risolvere. La bara con le spoglie del suo amato non c'è più perché è stata per sbaglio spedita in Albania. E parte lì allora il film di Julie, appunto, con la figlia, per andare a cercare questa bara. Si troveranno di fronte a un mondo che di occidentale ha ancora poco, diciamo così. Era questo un po', forse, Edmond, il tuo desiderio, quello di mettere a conflitto questi due mondi per scoprire che forse però c'è qualcosa anche per potersi incontrare? Sì, assolutamente. Cioè, io volevo mettere proprio in evidenza questi due mondi così diversi, così lontani e così vicini, diciamo la verità. Poi volevo scoprire anche la realtà balcanica, quella che succede nei Balcani quasi ogni giorno. Sappiamo che i Balcani sono stati sempre una polveriera, e invece, cioè, tramite anche il mio modesto lavoro, noi vogliamo, diciamo, fare così un'isola di pace. E lì scopriamo tutti questi conflitti assurdi che ancora oggi continuano, cioè nei Balcani, sia tra i greci e gli albanesi, i greci e i macedoni albanesi, i serbi e così via. Cioè, uccidersi o magari pensare di guardare indietro alle tombe degli antenati invece di guardare avanti, vivere in pace, vivere insieme, questa è stata la mia idea, cioè questa idea di pace, di divertirsi, di prendersi in giro con i difetti sia degli albanesi sia dei greci. Senti, un cinema il tuo, per quello che abbiamo visto, che è anche visivamente figlio di quella scuola balcanica che prendeva le mosse dalla ex Jugoslavia e che ha, diciamo, ovviamente Emir Kusturica come grande padre, ma insomma tutta una serie poi di registi che cercano visivamente, ripeto, in termini stilistici un po' di lavorare anche con l'ausilio delle musiche, per esempio, per dare una certa fotografia che sia una fotografia quasi surreale, no, degli eventi. Ma questa assurdità, questa surrealità lo produce, cioè la terra stessa, la terra dei Balcani produce tanta pazzia, tanta assurdità, cioè, e l'abbiamo visto anche nella storia, cioè tantissime cose stupide ma anche, diciamo così, intelligenti sono successe proprio nei Balcani. E questa terra, cioè, che ti dà la materia prima per fare questo tipo di film, questo tipo di veduta, questo punto di vista di vedere le cose, cioè nei Balcani noi sia il dolore ce l'abbiamo di troppo, sia la gioia di troppo, quando ci divertiamo troppo, quando piangiamo troppo, e tutte queste cose vengono riflettate poi nelle creazioni, diciamo, soprattutto cinematografiche, cioè dove la visione è molto importante, ma tutti i paesi balcanici, diciamo così, forse l'ultima è l'Albania dal punto di vista cinematografico, perché sia la Serbia, sia la Grecia, sia la Turchia, sia la Romania, sia la Macedonia hanno dei bei prodotti, diciamo così, cinematografici. Adesso speriamo che anche l'Albania entrerà in quella scia, diciamo, di un buon cinema, diciamo. Grazie Edmond Budina e in bocca al lupo per Balkan Bazaar. Grazie, grazie. E adesso noi diamo la linea alla regia, fra poco torniamo insieme perché dobbiamo parlarvi di un altro arrivo in sala, quello di un anime che farà felici molti fans, ovvero Ken il Guerriero. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora insieme, Rosa Purpurea, la nostra trasmissione continua con altre novità in sala in questa settimana stradominata da Harry Potter. C'è qualche coraggioso che cerca un pubblico alternativo, magari lo fanno in questo caso gli amici della Cecchigorion Video, Yamato Video, che distribuiscono in sala un film che è davvero un capolavoro del suo genere. Stiamo parlando di anime, stiamo parlando di animazione giapponese, stiamo parlando di un personaggio come Ken il Guerriero, che è uno dei personaggi mitici di una certa grafica di qualità, disegno di qualità, animazione di qualità giapponese. In questo caso il giovane Ken deve salvare, guarda un po', gli esiti e i destini della Terra, in questo che è un vero e proprio prequel della saga di Ken il Guerriero. Ascoltiamo. Almeno sai per cosa sta pregando? Perché finalmente giunga un salvatore. Le persone indifese l'hanno sempre fatto in tutte le epoche della storia. Un salvatore, dici? Io vi chiedo, sacre stelle di Okuto, vi chiedo perdono. Soltanto adesso ho compreso quale sia il destino di Okuto e dunque quale sia il mio destino di successore. Un film che chiude i cinque film, la saga, diciamo, realizzata per celebrare i 25 anni appunto dalla nascita di questo straordinario personaggio. Boris Sollazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, devo ringraziarti perché quello di fare la recensione di Kenshiro è un regalo che mi fai. Tra l'altro Kenshiro che è super protagonista stavolta. Sì, siamo cresciuti insieme tra l'altro, nel senso lui era molto più cattivo di me. Tu non sei un supereroe, per questo però diciamolo. No, neanche lui in un certo senso però. Allora, questo film, raccontaci un po'. È l'antieroe, se vogliamo, perché è un uomo profondamente taciturno, estremamente manesco, che vive, insomma, la tragedia di una donna che gli viene rapita sotto gli occhi e lui addirittura consegue in quella lotta con Shin i famosi 7 punti di pressione. Chi ha la mia età sa benissimo di che cosa parlo, chi non ha la mia età sappia che sono 7 cicatrici che corrispondono a una costellazione. E da lì probabilmente vengono anche, oltre che dal suo essere l'unico erede legittimo della dinastia di Hokuto, la sua bravura nella lotta e la sua capacità di dare la morte in pochi secondi. E è sempre stato un anime, un manga che ci ha appassionato anche e soprattutto per una violenza che non eravamo abituati a vedere, una violenza molto coreografica. In questo caso però la leggenda del vero Salvatore è una sorta di prequel che va a indagare nelle pieghe della prima serie televisiva e dei primi numeri del manga e come si è sentito già dal thriller, i più acuti l'avranno sicuramente capito, c'è un maggiore approfondimento psicologico, cioè c'è una voglia di andare oltre semplicemente la lotta e la vendetta di Kenshiro. E quindi in qualche modo diventa questo quinto capitolo della pentalogia un modo per conoscere ancora meglio Kenshiro, e forse non solo per gli appassionati, può essere davvero il capitolo che più può piacere anche a chi fino adesso non l'ha conosciuto. E allora va visto al cinema, ecco perché una distribuzione, un video lo fa vedere in sala, e questo secondo me è un aspetto importante, perché è un film che va assolutamente visto sulla magia del grande schermo. Ken il Guerriero, il prequel delle vicende di Kenshiro, totalmente diversa invece l'atmosfera in una commedia di cui vogliamo parlarvi ora, che si intitola Per sfortuna che ci sei. Il film è francese, il suo titolo originale è La chance de ma vie, ed è la storia di un portasfiga, diciamo così, cioè di uno che fino a quel momento, ogni volta che aveva una donna, a questa donna succedeva di tutto, da malattie rare a episodi, fratture, eccetera eccetera, fino a quando non incontra la donna giusta e questo incantesimo malevolo sembra fermarsi. Dico sembra perché le cose non andranno così. Sentiamo. Mi chiamo Julien Monnier. Questa è la mia prima fidanzatina e questo è il mio primo bacio. Per tutte le mie donne sono il gatto nero, lo specchio rotto, il venerdì 17. Ciao, come va? Vattene via, non mi toccare! È una reazione allergica alla tua saliva. Credo stia dicendo che tra voi è finita. Ormai avevo gettato la spugna. Finché un giorno non decisi di darmi un'ultimissima possibilità. Oggi è il mio giorno fortunato. Davvero? Le cose cambiano. Io detesto perdere. Ah, sì, allora stammi alla larga. E allora avete sentito, insomma, il clima diventa divertente nel momento in cui lui cerca di fare di tutto per non far capitare niente alla sua nuova fiamma, quella giusta, diciamo così, almeno cercando di evitare che capiti quello che è capitato alle precedenti. Commedia brillante, Boris, che arriva dalla Francia, la Francia che ha trovato un po' una vena negli ultimi anni di una commedia, diciamo, fra virgolette, più americana per certi versi. Sì, devo dire che c'è quel tipo di leggerezza che prima era sofisticata e pur sempre d'autore, che invece adesso è essenzialmente commerciale, molto furba, molto abile, agile. Per sfortuna che ci sei, mi sembra esattamente la fotografia di quello che dicevi. Anche nella scelta dei personaggi, lui sembra un Jean Dujardin un pochino più brutto, un pochino più vecchiotto, lei è esattamente lo stereotipo anche estetico, no? Della ragazza carina francese che può essere venduta anche all'estero, ovviamente, solo cinematograficamente parlando. Va detto che a mio parere il film ha la sua forza nella parte più comica. Il primo quarto d'ora è davvero esilarante. Quando decide di buttarsi sul sentimentale diventa un film noioso e anche abbastanza sciatto, e purtroppo però lo fa abbastanza in fretta, e tant'è vero che l'unico stratagemma comico divertente dopo il primo quarto d'ora è proprio quello che raccontavi tu, cioè il tentativo di mettere una pezza a questa maledizione. Alla fine è un film forse che poteva dare di più, ma in estate si può ridere forse anche con un po' di meno. Basta anche un quarto d'ora a volte. Grazie a Boris Sollazzo e appuntamento alla prossima settimana. Alla prossima settimana, Franco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ebbene, le novità al cinema le abbiamo selezionate e ve le abbiamo raccontate. Continuiamo a giocare con la seconda traccia del Blu-ray Game di oggi. Io non sono ferito, buone provviste. E avevamo deciso di separarci. In coscienza, non puoi citare il nostro accordo. Sei stato tu a spararmi. La Rosa Purpurea @radio24.it con il titolo di questo film per provare a vincere il Blu-ray. Più tardi, l'ultima possibilità. Adesso facciamo un salto indietro di una settimana. Vi avevamo fatto ascoltare la settimana scorsa le voci dei premiati per il premio Riccione, assegnato appunto durante le giornate professionali di cinema nella località romagnola. Le commedie italiane l'hanno fatta da padrona, sono state premiate in quanto portatrici sane di spettatori e di quote di mercato al cinema italiano durante la stagione che si va chiudendo. Abbiamo però un'intervista esclusiva da farvi ascoltare. Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Luca Bizzarri, Luca delle Iene per i più, che è stato il grande protagonista dell'annata dello spettacolo italiano, prima col suo amico di sempre Paolo a Sanremo, poi appunto con questo exploit totale di Immaturi, commedia sorprendente che ha incassato quasi 15 milioni di euro e che sta preparando già il suo sequel. Allora, Luca Bizzarri e il cinema in questa intervista. Luca, parlavo prima con il regista di Immaturi, di questo successo andato oltre le più incredibili aspettative, anche perché era un film che partiva, come dire, no, con sì, buone ambizioni, ma magari senza pensare di arrivare lì dove è arrivato. E che forse la corda che ha toccato, quella che è piaciuta, è raccontare una generazione che ha saputo mantenere dentro di sé quell'aspetto anche di giocosità, anche forse un po' infantile, però nella maniera buona, cioè che riesce a guardare al suo passato con malinconia ma senza tristezza. Ecco, ti riconosci in questo quadro, diciamo, di questa generazione? Sì, anche se difficilmente mi riconosco in qualche cosa, ma sicuramente c'è una vena di tristezza, secondo me, è che loro non se ne accorgono, cioè è che i protagonisti non se ne accorgono perché hanno, sono ancora adolescenti, non sono ancora del tutto cresciuti, tutti i protagonisti di quella storia, sia quelli sposati con i figli, sia quelli single, sia, poi vabbè, il mio personaggio è l'esempio più lampante dell'eterno adolescente, però secondo me c'è anche quella parte lì, c'è anche quella parte un po' malinconica che di qualcosa che ancora è incompiuto nonostante gli anni passino. Ecco, e raccontaci un po' invece cosa succede in Grecia, perché ci hanno detto che quest'isola insomma fiorisce. In Grecia succedono tante cose. Io ho finito il primo film promettendo alla mia fidanzata di portarla con me nel viaggio della maturità ed è una promessa che manterrò a metà. Diciamo che anche questa volta il mio personaggio non si... Insomma, lui è sempre così, non riesce a prendersi nessun tipo di responsabilità, nessun tipo di impegno e quindi scappa in continuazione e scappa anche stavolta. È stato per te un anno importante, ovviamente Sanremo l'hanno visto tutti, però secondo me è stato importante anche questo film per te, ma come per esempio mi viene in mente per Ricky Memphis, che è un altro attore che aveva tanta storia alle spalle ma una roba così non l'aveva fatta. Trovo che in questo film Genovese abbia saputo fare quello che ha fatto Pupi Avati con Diego Abatantuono con Regalo di Natale, cioè trasformare dei profili e farli diventare degli attori universali. È una cosa che tu pensi di spendere nel cinema da ora in poi? Cioè quanto spazio occuperà il cinema adesso? Ma noi abbiamo avuto, sia io che Paolo, perché poi lavorando vicino abbiamo fatto più o meno le stesse strade, abbiamo avuto una strada strana, perché noi siamo partiti con il teatro, poi siamo, la prima cosa di vero successo che abbiamo fatto in effetti è stato un film, perché poi Allora Mambo è stato quello che ci ha fatto conoscere, poi abbiamo fatto la televisione, poi siamo tornati al cinema con alterne fortune e poi questa cosa è stata forse inaspettata però cercata, non è capitata per caso. Era tanti anni che aspettavamo l'occasione giusta per fare un film che ci piacesse e non volevamo più chiuderci dentro il film di Luca e Paolo, che ci sembrava sempre una roba che non avesse molto senso. Noi non siamo mai stati due comici normali, nel senso che quelli che di mestiere fanno i comici, a fare i comici sono più bravi di noi. Invece, avendo una preparazione più classica, siamo stati più bravi di altri a fare tante cose diverse. Questa era una strada che ancora dovevamo percorrere, la stiamo percorrendo e speriamo che si continui a farla. Io ti vedo bene in un film drammatico. Ma noi abbiamo fatto, perché Allora Mambo poi alla fine, Allora Mambo e Se Domani alla fine aveva tutta una parte drammatica, ma noi tiriamo al poliziesco. Ciao, grazie mille. Ciao. Luca Bizzarri alla Rosa Purpurea, viabilità, fra poco parliamo di home video. La Rosa Purpurea. Ed eccoci qua, il gran finale della Rosa Purpurea, come sempre dedicato all'ovvideo, alle visioni domestiche di cinema, in televisione, appunto in videoteca. Cominciamo con la TV, cominciamo con i palinsesti della prossima settimana. Oggi scelte di cinema francese dagli amici della redazione del settimanale Film TV. Buongiorno a Giulio San Giorgio. Ciao Franco e bentornati con le segnalazioni di Film TV. Questa settimana vi proponiamo due film d'origine francese, partendo da lunedì su Rai Movie a mezzanotte 20, Chacun son cinéma, film inedito in Italia, opera collettiva ideata da Gilles Jacob nel 2007 per celebrare i 60 anni del Festival di Cannes. È l'insieme di 33 piccolissimi film di autori che hanno segnato la storia della kermesse, da Angelopoulos a Wong Kar-wai, dai Coen a Cronenberg, da Moretti a De Oliveira, da Lynch a von Trier, a ciascuno il suo cinema, il suo omaggio alla settima arte con ironia, affetto, tenerezza e un po' di malinconia. Un film ovviamente per costituzione discontinuo, ma con alcune miniature decisamente folgoranti. E questa è davvero una grande occasione, perché inedito in televisione sono quei film che poi difficilmente si trovano in giro. Chacun son cinéma, Rai Movie, lunedì a mezzanotte e 20. E come dicevamo, cinema francese anche nella seconda scelta. La seconda segnalazione è invece un classico del cinema francese, giovedì su Rai Movie alle 9.05 di mattina, L'ultimo metro di François Truffaut. Siamo a Parigi sotto l'occupazione nazista, i teatri chiudono presto per garantire il coprifuoco, e mentre si sviluppa la storia di una donna che cerca in maniera funambolica di continuare l'opera del marito regista ebreo nascosto nei sotterranei, e mentre un attore cambia gli equilibri della compagnia. Truffaut guarda al particolare per parlare dell'universale, intreccia il pubblico storico, un privato denso d'amore e passione per lo spettacolo, che diventa la metafora principale e la chiave interpretativa principale del film. Si autocita nel finale e regala al pubblico un altro capolavoro scritto in punta di penna, recitato magistralmente dalla Deneuve Depardieu e illuminato dalla fotografia di uno dei più grandi direttori della fotografia di sempre, che è Almendros. E allora L'ultimo metro di François Truffaut su Rai Movie giovedì alle 9.05 del mattino. Grazie Giulio. Grazie Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. E allora, questi sono gli appunti che dovete annotarvi sul taccuino della prossima settimana televisiva, e noi andiamo avanti con il nostro DVD game, con la terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Lo sapevo. Sapevate cosa? Che siamo seguiti. Ho chiesto all'indiano di farmi un segnale se vedeva qualcuno sulle nostre tracce. Avete sentito un nitrito di cavallo, un vecchio che parla con una bambina e sono inseguiti. Pensiamo di aver dato abbastanza in questo game. La Rosa Purpurea @radio24.it è l'indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film, che sveleremo la prossima settimana, come facciamo adesso con la game della settimana scorsa. Se lo vuoi sapere, io so qualcosa che tu non sai. Proprio così, la sua mente è lucidissima, ma la sua anima è matta. Ti dico che sta morendo. Lui odia tutto questo. Odia tutto questo. Lo straordinario Francis Ford Coppola di Apocalypse Now, che arriva in versione Blu-ray ed è uno dei capolavori totali del cinema di tutti i tempi, non solo del cinema di genere. Vincitori del Blu-ray sono Antonio Moschetti di Gioia del Colle, provincia di Bari, e Claudio Fabbri di Selvazzano Dento, provincia di Padova, nord e sud, per questo capolavoro di Coppola, di cui parliamo con il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, l'edizione in alta definizione del capolavoro maledetto di Coppola include su un unico disco la versione cinematografica, che ricordo presente con il doppiaggio italiano dell'epoca, e la successiva Redux, che è disponibile unicamente con il parlato in inglese. È notevole la qualità per entrambe, c'è questa traccia DTS in italiano, due canali, assolutamente dignitosa, superiore a quella ad alta risoluzione multicanale in inglese. Tra le numerose ore di contenuti extra segnaliamo sicuramente il commento del regista, sottotitolato, l'incontro con John Milius e Francis Ford Coppola, la scelta degli attori, c'è addirittura il programma radio del 38 con la voce di Orson Welles, l'incontro con il regista Cannes nel 2001. Attenzione perché l'edizione due dischi Blu-ray, a questa edizione si affianca una strepitosa collectors con un Blu-ray in più che contiene tanti altri extra esclusivi, tra cui il famoso film documentario di George Hickenlooper e Filmmakers Apocalypse. Eh beh, insomma, davvero un disco di riferimento e da collezione per Apocalypse Now. Noi andiamo avanti con le recensioni perché incontriamo un ospite sempre gradito delle nostre serate cinematografiche, ovvero Clint Eastwood, con il texano dagli occhi di ghiaccio. Incamminati pure con la tua guida verso il Messico. Io ho certi problemi da risolvere nel Missouri. Ho sentito dire che il generale Shelby e altre bande hanno rifiutato di arrendersi. Vanno anche loro in Messico. Cercherò di unirmi a loro. Shelby, non sapevo che non si era arreso ai nordisti. Neanch'io mi sono arreso per questo. Ma mi hanno preso il cavallo e quello ha dovuto arrendersi per forza. Lo avranno messo a tirare un carro militare, povera bestia. È da poco terminata la guerra di secessione, Josie Wales, dopo aver combattuto contro i nordisti, decide di ritirarsi nella sua fattoria. La tranquillità però dura veramente poco perché si vede massacrare la famiglia e bruciare la casa per mano di uno spietato capitano nordista e dei suoi uomini. Si unirà a una compagnia di cui fanno parte anche un vecchio indiano, una squaw, intraprendendo una personale battaglia roso dal tarlo della vendetta. Nel 76 l'icona Clint Eastwood dirigeva se stesso in un western di grande respiro, in stile John Ford, aspro e al tempo stesso ironico. L'ultimo ruolo western prima di riprendere il genere 9 anni dopo col mirabolante Il Cavaliere Pallido. L'edizione Blu-ray di Warner è di notevole qualità, imperdibile per gli appassionati dell'attore regista, che contiene tra l'altro un inedito documentario di mezz'ora sul contributo di Eastwood al genere western. E noi invece cambiamo decisamente genere in questo caso, andando un po' al gangster movie, se vogliamo, con Get Shorty di Barry Sonnenfeld e con un cast straordinario che va da uno scatenato Danny DeVito a John Travolta. Sentiamo. Ci sono $310,000 in questa borsa. Mi prendo i 300,000 che hai frodato all'assicurazione e i 10,000 che avanzano li prendo in prestito e li avrai un'altra volta. Ti freghi tutti i miei soldi, ne prendi in prestito solo una parte. Al 18%, ma non chiedermi altro, capito? E adesso me ne vado. Ma non saprai dove sarò. Nemmeno io so dove sarò domani. Ti trovo. Lasci più tracce tu di un caterpillar. Morto il capo per cui lavorava, Chili Palmer, esattore di Cosa Nostra, incaricato dal nuovo boss di rintracciare due cattivi pagatori. Leo, titolare di una lavanderia che è creduto morto in un incidente aereo, ma che in realtà se la sta spassando nei casinò. Ma poi c'è anche Harry Zim, regista di film di serie Z, che ha dimenticato un debito con una sala da gioco a Las Vegas. Quello che i suoi datori di lavoro non sanno è che in realtà Chili non ha alcuna intenzione di punire i debitori, ma recuperare il credito per produrre un film. Però farla franca con la mafia alle calcagna non sarà affatto facile. Raffinata e strepitosa commedia di Barry Sonnenfeld, che arriva in Blu-ray alta definizione da Fox Home Entertainment, c'è l'audio di TS in italiano, quello ad alta risoluzione in inglese, e tra gli extra, purtroppo non sottotitolati, segnaliamo il commento del regista, numerosi capitoli di approfondimento sulla storia, personaggi, montaggio, ma è presente addirittura anche una scena tagliata. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E con gli approfondimenti on video noi chiudiamo come sempre la nostra trasmissione. L'appuntamento va al prossimo weekend, come sempre qui su Radio 24 per La Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.